24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 6:34 minuti. Buongiorno, cari ascoltatori. Come al solito, il venerdì dico è venerdì. L'ultimo giorno di 24 mattino, l'ultimo giorno di questa sveglia. Saluto la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Lescapè come sempre in regia. E apriamo questo bar? Sì. Apriamo il bar, la nostra saracinesca è aperta. Il caffè volentieri a tutti quanti. Il caffè a tutti quanti, come al solito offre Nicole Minetti. E non so se l'avete capito, ma il decreto sui costi della politica con cui tanti giornali aprono e che il Parlamento vuole bocciare è quel decreto che era stato ribattezzato Antifiorito, che il governo aveva fatto e ha fatto per bloccare, tra le altre cose, i vitalizi. Allora, siccome alla Regione Lombardia ci hanno detto no, non abbiamo maturato il vitalizio, non dite mai questa cosa, c'è un decreto del governo, eccolo lì, il decreto lo vogliono bocciare, e quindi se il decreto non entra in vigore è ufficiale champagne per tutti. Eccolo lì, champagne alla Regione Lombardia, perché il vitalizio pare maturato. Vabbè, comunque, parliamo di questo e di altre cose, di quello che c'è sulle prime pagine dei giornali con due ospiti, eccoli qua. Saluto Carmen La Sorella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, ben svegliata, ovviamente. Beh, sì, qualche minuto. Sì, sì, ma noi facciamo così, tiriamo giù dal letto i nostri ospiti. Saluto anche Vladimir Luxuria, buongiorno. Buongiorno. Oh, che voce squillante a quest'ora. Non è facile, perché spesso gli ospiti li chiamiamo e fanno un po' fatica. Allora, io vi voglio far ascoltare. È arrivato l'audio di Berlusconi, come quello della discesa in campo del 94. Adesso ha fatto un audio per salutare l'Italia, per dire, cioè salutare l'Italia nel senso dal punto di vista politico in prima persona. L'audio di Berlusconi, perché lo ha fatto? Per amore dell'Italia si possono fare pazzie, ma anche cose sagge. 19 anni fa sono sceso in campo, una follia non priva di saggezza. Ora preferisco fare un passo indietro per le stesse ragioni d'amore che mi spinsero a muovermi allora. Un gesto d'amore. Carmen La Sorella, che voglio ricordare. Ah, beh, ma i gesti d'amore. Gesti d'amore. È un gesto d'amore questo di Berlusconi, ma questo passo indietro. Devo dire che sentire questa voce sembra veramente oggi che venga dal passato. Non so, in qualche misura credo che il nostro paese si fosse abituato per un lungo periodo, era caduto in una sorta di letargia, per cui sentire queste cose oramai era apparteneva, insomma, a quel momento, a quegli umori, a quegli odori, a quell'atmosfera. Adesso invece tutto questo ha veramente il sapore di una cosa così, come quelle che appartengono poi agli archivi. Ma è davvero così? Perché in realtà molti dicono, guardate che state attenti, oggi c'è un'intervista a Marina Berlusconi sul Corriere della Sera, che dice, ma non pensiate che mio papà, voglio dire, vada via, non pensiate che non sia più protagonista. Vista, per carità, mai dire mai, non voglio dire, ci siamo abituati a quelli che sono stati dei coup de théâtre straordinari, però ecco, io mi fermavo semplicemente all'ascolto, no? L'ho sentito ieri sera e stamattina risentendolo ancora appena sveglia, oggettivamente sembra veramente fuori contesto. Poi che Berlusconi sia capace di queste sorprese straordinarie, che peraltro però hanno mosso, no? Perché al di là di quello di cui stiamo parlando, e che cosa muove questo? Muove, diciamo, qualcosa di inimmaginabile fino a qualche tempo fa, oppure al di là va bene, consentito alle sero. Certo. E comunque, a parte questo, anche all'interno della PDL è che apparentemente succede un confronto, e quindi è uno scontro, anche uno scontro. Ma poi chissà chi ci sarà adesso. Berlusconi, l'ultimo nome che è uscito sui giornali oggi è che vorrebbe Emma Marcegaglia, Silvio Berlusconi, altro che primarie, vorrei Emma Marcegaglia. Ma a questo punto si è lì, si alza il prezzo ogni volta, no? Si alza il prezzo ogni volta. Non so, vorrei Vladimir Luxuria, fa parte del passato. Vladimir Luxuria, tra l'altro, era in Parlamento quando era il momento, vabbè, di Prodi, ma di cui Berlusconi era ancora in auge a livello politico, poi è tornato premier. Fa parte davvero tutto questo del passato, oppure rischiamo di archiviare troppo in fretta Berlusconi, che è pronto a qualsiasi colpo di coda? Luxuri. Non ho visto bandiera mezz'asta in questi giorni, quindi insomma la gente non è, credo, così addolorata da questo abbandono di Berlusconi dalla politica, se così sarà. Io ricordo una frase di Berlusconi, un giorno disse: ho così tante cose da fare in politica che non ho la possibilità a volte di godere tutti gli yacht che ho, tutte le case che ho. Adesso avrà, spero, tutto il tempo per godersi la vita, per godersi tutte le proprietà. Secondo me Berlusconi abbandona, cioè non scende in campo, almeno in questo turno, perché lui segue molto i sondaggi, si fa fare giornalmente dei sondaggi e sa benissimo che se lui si mettesse a capo di una coalizione farebbe una magra figura. Dato che lui non la vuole fare la magra figura, sai cosa farà? Farà fare queste primarie in cui ci divertiremo molto a vedere la Mussolini cosa dirà contro la Santanchè, e poi si metterà la Craxi. Sarà molto divertente, ci saranno più donne in queste primarie. Però poi lui dirà: avete visto, dopo la sconfitta, perché comunque ci sarà una sonora sconfitta, avete visto, senza di me il centrodestra se ne va da un'altra parte. E torna. Ma soprattutto lo fa perché lui vogliono imbarcare Casini, vogliono cercare di allargare. E una delle condizioni sine qua non di Casini che faccia un accordo con il centrodestra è quello che non ci sia Berlusconi. Quindi credo che Fini, Casini adesso ritorneranno da quella parte lì. No, insomma, rimettere insieme un grande centro, un centrodestra, cercare di ricompattare il tutto. Intanto, che cosa è successo? È riapparsa Rubi. Non so se l'avete visto ieri, Santoro, comunque le interviste. Vogliamo sentire Rubi. Ruba cuori, perché su questo vorrei capire che cosa ne pensate anche di questa ragazza. Si ballava giù, come funzionava? Sì, si ballava. Ognuno faceva quello che riteneva giusto fare. C'era la ragazza più spigliata, quella meno spigliata, c'era quella che lo voleva fare, quella che non lo voleva fare. E se si era lì, se lo volevi fare lo facevi, se non lo volevi fare ti stavi seduta sul divano a berti il tuo bicchiere e poi quando finiva la serata ognuno tornava a casa sua. Però balletti arte. Sono sempre liberi, maggiorenni, vaccinate. L'unico problema ero io. Vladimir Luxura, che effetto fa sentire Rubi? Che pensi di Rubi Ruba Cuore? È nata una stella. Addirittura? Sì, è nata una stella. E perché? Sarà sicuramente una persona che poi verrà invitata nei vari talk show, avrà sicuramente una carriera artistica, credo, un po' come la Minetti. Perché vabbè, artista adesso non la Minetti è un consigliere della regione Lombardia, voglio dire. Sì, vabbè, ma comunque se la metti in televisione, dice fare un servizio, insomma, queste cose non si negano a nessuno. Si pensa a una povera Rubi, una povera Minetti. No, il problema di queste feste, secondo me, io che ne ho organizzate così tante, non è insomma la virilità di Berlusconi, Bunga Bunga, Squit, non so adesso come si chiamano queste feste, ma è il problema che lei era minorenne, questo è il problema. Infatti l'ha detto, l'unico problema ero io, dice, sono tutti maggiorenni, l'unico problema ero io, però ha detto anche, ha escluso, dice non mi ha mai chiesto esplicitamente niente dal punto di vista sessuale, insomma, si era tutti lì, insomma, si capiva la situazione, chi voleva, chi non voleva, non voleva. L'ha detto anche a Picella, no? Anche a Picella, che erano solo cene eleganti. Cene eleganti. Quindi cene eleganti. Poi, vabbè, insomma, ognuno ha un concetto di eleganza. Però su questo vorrei capire un attimo. Carmela Sorella, ma queste cose interessano ancora gli italiani, secondo te, direttore? Io, perché prima pensavo di avere il microfono teso, mentre si continuava a parlare appunto di quello che dicevi, appunto sarà un contrasto tra le donne, che ce ne sono di più questa volta, eccetera, eccetera. E eccolo qui il discorso da capo. Immagini, diciamo, citavi la Santanchè piuttosto che la Mussolini, diciamo, quindi l'eleganza espressa ai massimi livelli e quindi proposta a un'opinione pubblica che naturalmente senza di questo non vive, perché sono queste le cose che interessano profondamente l'opinione pubblica, lo scontro elegante tra la Santanchè piuttosto che la Mussolini su temi fondamentali per la vita del paese. Quindi è proprio questo, questa immagine che ritorna, che è fastidiosa, di un mondo femminile che che quanto di più negativo ci possa essere, ma soprattutto perché non aggiunge, non toglie, appartiene a quelle paparazzate, quel sistema che nei momenti in cui ci sono i problemi veri, è vero che il gossip paga sempre, sì, è vero sì. che le cose che non so oggi rilevano, che le auto di lusso si vendono sempre, che le case di lusso si vendono sempre, mentre ovviamente le persone non hanno l'essenziale per poter pensare ai figli, al futuro, a quello che deve però essere una condizione che dicono, di diritto ordinario. Quelle ragazze dicono, ma eravamo adulte, vaccinate, sì, a parte Ruby che dice l'unico problema era io, cioè, c'è qualcosa, c'è davvero, non volevamo fare i bacchettoni, nessuno l'ha, c'è davvero qualcosa di scandaloso in tutto questo, c'è davvero tutto questo interesse, questo processo. Questo mondo è un mondo che ha espresso questa corte che si è creata e che è stata diciamo motivo da parte di tutti i paesi del mondo di uno sguardo compassionevole nei confronti del nostro paese. Sì, quello sì, a livello estero forse non abbiamo fatto in quel periodo da questo punto di vista una gran figura. Confronti, quello che in qualche modo quel periodo ha portato, io sono d'accordo che grandi ritorni possono esserci, soprattutto se si arriva poi alla coriandolizzazione del sistema del centrodestra, anche se poi ovviamente c'è la possibilità dell'unione dei moderati, ma dinanzi a questo poi ecco, se non ci sono io, quello che dicevate poco fa, sì. Però siamo in una condizione nella quale tutto questo oggettivamente non è che sia da bigotti, da colpevolizzare e così via, è soltanto roba che offende diciamo quello che in un paese ci sono tante cose, sì. Ci possono fare anche queste, ma non devono diventare la base. 24 mattino. Lo stato d'animo della gente è proprio quello dello schioppo. La gente è stufa e se qualcuno dice di armarsi, io sono uno dei primi che mi armo sul serio. L'errore è proprio quello di voler fare carriera politica. Una volta fatto il mandato, una volta fatto quello che deve fare una persona a servizio dei cittadini, deve terminare. Questi politici veramente mi fanno incazzare. Ciao, sono Francesco, volevo invitare a smetterla di puntare il dito contro i politici, ma lo dovremmo puntare contro noi stessi. Penso che la politica sia lo specchio della società. I politici hanno capito come siamo fatti, ecco perché sono così. È colpa vostra, dei giornalisti in toto, se continuate a tenere in vita questa gente. Vorrei proprio avere l'indirizzo dove andare a comprare i forconi. Me lo può dare per cortesia? Grazie. Vabbè, è la nostra segreteria che attiva da ieri, poi vi diamo il numero di telefono, ma noi siamo nel nostro bar di Radio 24 con Vladimir Luxuria, con Carmen la sorella che... ma Carmen la sorella, devo svelare un giallo qui, perché io ho letto, cioè tu sei direttore di editoriale generale di San Marino TV, ma ho letto proprio una cosa di ieri che forse lasci. No, la cosa è questa, io ho costruito un progetto in un'epoca appunto in cui in Italia, essendoci la mordacchia, come si dice alla stampa, appartenendo per scelte da sempre a una fazione piuttosto che all'altra, ma solo quella di chi fa il proprio mestiere, che amo profondamente dopo tanti anni, ho detto, ma sai che c'è da fare un progetto, mi hanno proposto San Marino, c'era tutta una prospettiva, e io ho costruito una TV. Quindi mi sono divertita moltissimo, però insomma, santi Dio, ho girato il mondo, San Marino si può stare, sono stata 4 anni. Però si dice che si stia bene a San Marino, no? no, ma sai, io non ho preso neanche la residenza, quindi da questo punto di vista non ero qui per trarre benefici fiscali, ero qui in una fase in cui era così, in Italia si lavorava solo a certe regole, sì. E quindi l'ho fatto serenamente, con tanta gioia, però il progetto mi è piaciuto. Oggi è una realtà, quindi come sempre quando completi un'operazione passi le cose un'altra. Il problema è sul passare a un'altra, che c'è qualche problema in questo momento con la comunque, RAI, quindi mi auguro che non sia quella RAI di un tempo che praticamente continuava a fare diciamo gli interessi in base a chi glielo chiedeva. Beh, ma insomma è sempre stata un po' così, ma la RAI è anche controllata dalla politica. Io però, avete sentito i nostri ascoltatori, Vladimir Luxuria qua la schioppettata, il forcone balcone, sono i termini più in voga. È pericoloso tutto questo? È pericoloso evocare? È giusto? È sbagliato? Queste azioni che non sono azioni non propriamente violente. Ma io penso che purtroppo gli italiani non sono capaci, secondo me, oggi come oggi, di esprimere poi questa indignazione poi in un vero e proprio voto. Perché poi non vorrei che poi alla fine di tutta questa giostra ritornassero in Parlamento i soliti volti. Beh, un po' è così, un po' è così, visto chi si candida. Persone, diciamo, che hanno problemi con la giustizia. Allora, anche il fatto che, insomma, ci sia stato questo passo indietro adesso sui tagli della politica e soprattutto sui controlli della spesa è una cosa che ai cittadini non va giù. Ricordiamo che gli italiani hanno cominciato a incazzarsi già dopo il referendum del 93, perché loro non volevano il finanziamento pubblico ai partiti. E poi hanno visto, cioè, nonostante poi è stato rifatto come rimborsi, hanno visto dove sono andati a finire. Allora a me mi piacerebbe non solo un organo di controllo che faccia in modo che non ci sia un fiorito che spenda più di 1 milione di euro, tra cui le borse della sua compagna, che è riuscita a corteggiare e a diventare un etero corteggiatore fiorito, parafrasando un'altra frase, grazie al culo degli altri, culo inteso con gli altri che pagano il finanziamento pubblico ai partiti, ma magari anche quei 150.000 euro che ha speso la Regione Lazio per fare un mausoleo dedicato a un gerarca fascista che ha lanciato, Rodolfo Graziani, che ha lanciato del gas sulla popolazione etiope, uccidendo uomini, donne e bambini. No, oggi, tra l'altro, il Sole 24 Ore fa i calcoli oggi dei costi della politica. Dal 94 a oggi, pensate, i partiti hanno preso 2,2 miliardi di euro incassati, ma ne hanno spesi solo 580. E giustamente si chiede il Sole 24 Ore, tutti gli altri, consulenze, affitti, spese, non si capisce. Però Vladimir Luxuria, io devo chiedere questo: c'è Nichi Vendola nei guai? Nichi Vendola, che è il diciamo sotto il cui cappello sei stata eletta in Parlamento, ecco. Sì. Che diresti oggi a Nichi Vendola, che ha detto: se mi condannano lascio la politica, mi dimetto? Anche lui nei guai giudiziari. Lui ha detto, intanto l'ha detto, quindi e quindi a lo farà altri, se succederà, tipo altri che hanno responsabilità politiche, sembra che abbiano la colla proprio sulla poltrona, che proprio non se ne vogliano andare. Lui lo ha detto. Si tratta di una condanna per, diciamo, di un'inchiesta. Sì. Per, ma tu ci credi? Credi che possa aver fatto? Io non ci credo. No. Io conoscendo Nichi Vendola, come persona molto integerrima, credo che, questa è una mia opinione del tutto personale, che questa accusa per cui lui avrebbe raccomandato un primario sia più per una ritorsione di persone che sono state poi alla fine fatte fuori, quando si è scoperto che queste persone non applicavano criteri di meritocrazia per quello che riguarda l'assunzione di primari in un comparto, devo dire, molto delicato, quello della sanità. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, prendere il roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le 3, voli da spremuto, ho volito un caffè. Per amore dell'Italia si possono fare pazzie, ma anche cose sagge. 19 anni fa sono sceso in campo, una follia non priva di saggezza, ora preferisco fare un passo indietro per le stesse ragioni d'amore che mi spinsero a muovermi allora. Sarebbe un santo, ma che dinte questa tappaca, e fuori chissà se ci stanno spassando. Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è disse caffè. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Venerdì 26 ottobre, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre su: i partiti smontano la manovra, più ampie le detrazioni sul lavoro. Questo è il titolo di apertura. Molti giornali invece si concentrano su un altro aspetto, il parere negativo dato dal Parlamento sul decreto che taglia i costi della politica. Muro dei partiti contro i tagli, così apre il Corriere della Sera. Per il Fatto Quotidiano, Monti, schiaffo della casta, niente taglio alle regioni. Il Messaggero, fisco e sanità, stop ai tagli. Libero, la banda degli onesti, emette Vendola, Bersani, Fini e Finocchiaro, le varie vicende giudiziarie. La Stampa, costi della politica, no ai tagli. E poi la vicenda esodati, qualcuno paghi per gli esodati, è il titolo di apertura dell'Unità, mentre Pubblico, adesso pagano loro, loro sono i ricchi, è l'ipotesi appunto della tassa al 3% per gli esodati, per coprire gli esodati, tassa del 3% per i redditi sopra i 150.000 euro. Non pago, mette in prima pagina al Manifesto una persona fotografata in Ferrari, una Ferrari nera. Fini è all'angolo, questo è il titolo di apertura del giornale, mentre Repubblica, legge bavaglio, l'attacco dei falchi, Repubblica torna sulla vicenda della legge per la diffamazione a mezzo stampa che si sta discutendo al Senato, dopo il caso Sallusti. Insomma, questi titoli, voglio partire da una notizia che trovate sul Sole 24 Ore, pagina 15, riguarda i costi della politica, come detto, poi vedremo il decreto che è stato per il momento... non si può dire bocciato, è un parere per ora di una commissione della Camera. È il decreto, tra l'altro, quello che vuole prevedere nuove norme per i vitalizi. I vitalizi, questo a dire che quando alla Regione Lombardia ci scrivono dei consiglieri arrabbiati, smettetela di dire che abbiamo maturato il vitalizio perché è entrato in vigore il decreto del governo, ecco, questo è il decreto del governo che sta per essere forse bocciato dal Parlamento. Quindi non è in vigore nulla per il momento. Rimborsi, no, un tesoretto per i partiti. Questo è il titolo dell'inchiesta di Fabio Pavesi sul Sole 24 Ore, e cioè quanto i partiti hanno incassato dal 1994 a oggi, cioè l'anno successivo alla bocciatura di tutti noi italiani con il referendum del finanziamento pubblico ai partiti. L'hanno chiamato rimborso e l'hanno rimesso dalla finestra quello che avevamo cacciato a pedate dalla porta. Quanto hanno incassato dal 94 a oggi i partiti? Su in totale 2,2 miliardi di euro. Questo è quanto è costato, secondo la Corte dei Conti, ai cittadini in 18 anni il finanziamento ai partiti, o meglio i rimborsi ai partiti. 2,2 miliardi di euro, una media annua di 120 milioni di euro. Questa torta è stata data ai partiti, ma sempre la Corte dei Conti ha certificato che di questi 2,2 miliardi di euro i partiti ne hanno spesi solo 580 milioni. E giustamente allora il Sole si chiede, mancano all'appello 1,6 miliardi di euro. Dove sono finiti? In parte si pagano stipendi, affitti, in parte consulenze non meglio specificate, contributi ad associazioni. In fondo, scrive Fabio Pavesi, nessuno ti chiede conto dei giustificativi di spesa. Ci sono tutti i bilanci ancora, visto che sono stati pubblicati l'altro ieri dalla Gazzetta Ufficiale, analizzati dei vari partiti, ma questa cifra tenetela a mente, 2,2 miliardi di euro è ciò che abbiamo dato ai partiti dal 94 a oggi. Loro ne hanno spesi 580 milioni, questo aggirando il termine di rimborso. Un rimborso dovrebbe essere spendi uno, ti do uno, e invece qui spendono 580 milioni ma hanno incassato 2,2 miliardi di euro. Il Fatto Quotidiano, è la seconda segnalazione che vi voglio fare, a pagina 2 mette questo titolo: quando Monti prese il volo blu per fare gli auguri. È una vicenda raccontata da Stefano Feltri e si riferisce al 19 settembre scorso, quando, secondo il Fatto Quotidiano, Monti prese un aereo di Stato per andare a Milano al compleanno del suo maestro, il professor Guatri. Luigi Guatri, 85 anni, festeggiati all'Hotel Principe di Savoia, 200 invitati, tutta la Bocconi e la finanza che conta. E scrive il Fatto, ma come? Monti va a Milano per la festa di compleanno con il volo di Stato del 31esimo stormo dell'aeronautica militare, proprio lui che ha voluto tagliare molto, lui che in nome della sobrietà dice basta auto blu. La storia era ricordata anche ieri da Italia Oggi e a domanda del Fatto all'ufficio stampa di Palazzo Chigi si precisa: no, ma quella sera era anche in programma un impegno riservato in prefettura a Milano del Premier. Il Fatto allora chiede all'ufficio stampa della prefettura di Milano, che risponde: quella sera, il 19 settembre, non risulta in agenda alcun incontro con il presidente Monti. Una deputata radicale, Elisabetta Zamparutti, ha detto farò un'interrogazione parlamentare per chiarire i dettagli della vicenda. Certo, il titolo è questo: quando Monti prese il volo blu per fare gli auguri, aereo di Stato per Milano, il premier va al compleanno del maestro professor Guatri e la replica: c'era pure un incontro in prefettura, ma al fatto non risulta. Problemi invece, ed è una storia raccontata oggi da Libero, forse per il portavoce di Nicola Zingaretti, che è il presidente della provincia di Roma. Perché? Racconta questa storia Roberta Catania in prima pagina. Sentite il titolo: un portavoce del PD si augura che cada l'aereo della Juve. È una vicenda un po' surreale. Galeotto fu Twitter. E scrive Roberta Catania su Libero in prima pagina: se il profilo Twitter Cappand, scritto con la K iniziale, dovesse corrispondere veramente ad Andrea Cappelli, uno dei portavoce di Nicola Zingaretti, sarebbe gravissimo. Dallo staff del presidente della provincia contattato da Libero nessuno ha smentito. Il diretto interessato a domanda diretta ha attaccato il telefono. Chi lo conosce assicura che quel profilo appartenga proprio a Cappelli. E che cosa è apparso su quel profilo? Dopo la partita di Champions League Chelsea-Juve, finita 2-2, appare questo messaggio a firma Cappand: c'è rimasto da sperà nell'incidente aereo. L'hashtag Chelsea-Juve. E tra l'altro fa sapere Libero, qualcuno risponde a Cappand, magari sopra Formello, cioè dove ha sede la Lazio. E Cappand risponde ancora magari. Cioè praticamente si evince, tra l'altro, che sono tifosi, immagino, della Roma. E Libero scrive così: il portavoce del PD Zingaretti si augura la superga juventina. La denuncia di un politico del PDL su Twitter, l'assistente del candidato democratico in regione avrebbe scritto sui bianconieri: speriamo nell'incidente aereo. E tra l'altro su Formello, dunque, anche coinvolgendo la Lazio. È davvero lui? Non è davvero lui? Beh, se è così, certamente Galeotto fu Twitter e anche il messaggio davvero vergognoso. Ora c'è un duro colpo a che cosa? Al decreto che voleva tagliare, che vuole tagliare i costi della politica voluto dal governo. È il decreto che stabilisce le nuove norme sui vitalizi, per esempio, per cui si passa al sistema contributivo, per cui bisogna aver fatto almeno 10 anni nelle regioni e non più si può essere semplicemente al primo mandato, bisogna avere almeno 66 anni di età. Oppure è il decreto che vuole stabilire basta i monogruppi, no? Sapete, quella follia tutta italiana di gruppi formati da un solo consigliere regionale, che per questo, essendo un gruppo consigliare, prendono dei soldi aggiuntivi. Insomma, un decreto che vuole tagliare, soprannominato anche anti-Batman dopo la vicenda Franco Fiorito alla Regione Lazio, e questo decreto ha subito un parere negativo della commissione del Parlamento, la commissione affari costituzionali, credo. E per carità, un parere negativo non vuol dire nulla, cioè non vuol dire una bocciatura, però guardate i titoli: Repubblica, pagina 4, stop al decreto anti-Batman sui costi delle regioni, no a controlli preventivi. Qual è la ratio di questo no del Parlamento? Come scrive Luciano Pizzetti sulla Stampa, intervistato a pagina 2 da Antonio Pitoni, Luciano Pizzetti del Partito Democratico, che è il relatore del parere contrario al decreto del governo, dice: oltre Costituzione non si va, così viene azzerato il federalismo, come pure il concetto di autonomia regionale. Altra questione è quella relativa all'articolo 2 del decreto sui tagli dei costi della politica, che va assolutamente salvaguardato in una dinamica di leale collaborazione tra Stato e autonomia. Ma insomma, così si azzera il federalismo con un decreto, e dunque si azzerano anche le autonomie delle regioni. C'è anche il presidente della regione Liguria, Burlando, intervistato da Repubblica, a pagina 4, da Raffaele Niri, dice: io ho risparmiato, non possono punirmi con un decreto del governo, è ingiusto colpire indiscriminatamente. La regione Liguria ha tagliato, il governo dica che cosa fare. Dice Burlando: io l'anno scorso mi hanno detto di tagliare e io, che sono diligente, ho tagliato. Nel 2011 la regione Liguria ha speso 330 milioni in meno, cioè il 29,8% in meno rispetto all'anno precedente. E poi non bastava, così quest'anno ho speso 160 milioni in meno sul capitolo sanità. Se guardiamo il complessivo fanno quasi 600 milioni. Non tutti fanno così? Certo, non solo non tutti fanno così. Ma il fatto di essere additati come un buon esempio si trasforma in beffa. E burlando dice: non ho capito dunque perché debbano pagare tutti indiscriminatamente. Insomma, sta di fatto che è stato dato uno stop a questo decreto. Tagli ai fiorito delle regioni, la rivolta dei peones dei partiti, così titola per esempio il Fatto Quotidiano a pagina 3. E dunque vedremo se questo, se come il governo risponderà. Tra l'altro oggi c'è un consiglio dei ministri, se è il caso già di nuovi provvedimenti o seppure questo è un parere tecnico, come dice Davide Caparini della Lega a pagina 2 della Stampa, premettendo, guardate, io in quella commissione, seppure faccio parte, non ero neanche presente alla seduta. Però non scarico le responsabilità, comunque è solo un parere, la commissione non ha potestà di intervenire e di correggere i provvedimenti, diamo solo dei pareri consultivi. Certo che però i pareri poi in teoria vengono rispecchiati dall'aula e quindi dal Parlamento tutto. Stiamo a vedere, insomma, questo assalto ai costi, al taglio dei costi della politica è l'ultimo, solo in ordine di tempo, assalto della politica ai provvedimenti recenti del governo. Quello più famoso, quello più importante forse anche per come incide sugli italiani, è l'attacco alla legge di stabilità. Allora, fa discutere questa ipotesi di mettere una tassa del 3% su chi guadagna oltre 150.000 euro l'anno, pensioni incluse. Confindustria dice no a questo nuovo prelievo. Anche il PDL e la Lega sono abbastanza contrari. Bersani è abbastanza dubbioso. Il vicepresidente di Confindustria Aurelio Regina viene intervistato dal direttore di Pubblico Luca Telese sul quotidiano appunto Pubblico a pagina 3. Dice: partiamo da un dato di fatto, dice Regina. Ieri abbiamo appreso della possibilità di questo provvedimento, abbiamo messo l'ufficio a studiare i conti, li stiamo rifinendo e sa bene, dice, lei sa, Aurelio Regina, di che cifre si parla per coprire gli esodati? E Luca Telese dice: beh, lo so bene, ci vogliono almeno 10 miliardi di euro. Ecco, vede, il gettito massimo invece che ci si può aspettare da questo provvedimento è attorno ai 100 milioni di euro. Significa che definirla intanto una tassa salva esodati è un semplice artificio retorico, non ha nulla a che vedere con gli esodati, non risolve il loro problema. E però Luca Telese dice: potrei obiettare che anche i ceti più poveri stanno pagando con tasse dirette e indirette, senza nessun beneficio della riduzione IRPEF. Mi scusi, risponde Regina, ma bisogna forse spiegare che col Salva Italia questi redditi sono già stati gravati di un prelievo aggiuntivo del 3%? Vogliamo aggiungere anche un altro 3%? Il problema non è più l'equità, ma la sostenibilità. Resta il fatto che gli esodati, malgrado il fumo con cui si confonde l'opinione pubblica, resterebbero tali. Dunque, questo perché il no di Confindustria a questa tassa. L'Unità e il Manifesto attaccano. L'Unità mette in prima pagina il titolo: qualcuno paghi per gli esodati. E tra l'altro c'è un contributo di Cesare Damiano, ex ministro al lavoro, che è l'autore di questo, di questa proposta, che poi è stata appoggiata da tutti i partiti in commissione lavoro alla Camera. Cesare Damiano dice: perché difendo quel contributo? E rispondendo a Confindustria, nell'articolo appunto che trovate sull'Unità, dice: mi è parsa stonata la voce di Confindustria contraria alla tassazione degli alti redditi, gli unici che consumano, è virgolettato, è la posizione appunto del vicepresidente Regina. Vogliamo rassicurare Viale dell'Astronomia: se quelle risorse di solidarietà chieste ai redditi alti aiutano a mandare in pensione chi oggi non ha reddito, otteniamo due obiettivi: ridiamo spazio ai consumi, in questo caso popolari, e offriamo un segnale di equità al paese. Non ci dispiace il fatto che i sacrifici per una volta vengano equamente distribuiti. E dunque Cesare Damiano dice: ecco, vi spiego perché difendo questa proposta della tassa del 3% sui redditi oltre 150.000 euro per difendere gli esodati. Il Corriere della Sera però fa sapere a pagina 2 con Lorenzo Salvia che spunta una nuova idea. Visto che questa tassa non piace a molti e rischia di arenarsi come proposta in Parlamento, ecco cosa spunta. Si pensa all'aumento delle sigarette. Cari italiani fumatori, 80 centesimi al pacchetto. Questo si sta ipotizzando. Più che i ricchi, a preoccuparsi dovrebbero essere i fumatori. La tassa salva esodati, approvata 2 giorni fa in commissione col parere contrario del governo, prevede 2 meccanismi per trovare i 3 miliardi necessari a mettere in sicurezza chi rischia di rimanere senza stipendio e senza pensione. Una, appunto, è il prelievo del 3% sui redditi oltre 150 mila euro, l'altra è l'aumento dell'accisa sui tabacchi. E dunque eccolo qui, si pensa all'aumento delle sigarette. Comunque ne discuteremo con il sottosegretario all'economia Polillo alle 8:15. Intanto sul fronte del mercato del lavoro c'è una notizia che solo il Corriere mette in ampio risalto, è una firma Rita Querzella, trovate a pagina 5, è un'interessante sentenza perché riguarda la riforma Fornero. La legge Fornero, secondo il giudice, assomiglia al vecchio articolo 18. Questo è il titolo dell'articolo. È la prima applicazione della legge Fornero per un caso di un dipendente di una società che era stato licenziato. Si chiama Piero Catalano Emiliano. Perché? Perché ha mandato una mail al suo superiore che è di questo tenore. Parlare di pianificazione nel gruppo Atti, il gruppo per cui lavorava, è come parlare di psicologia con un maiale. Nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire. Questa era la mail. L'azienda non ha per nulla gradito, ha licenziato il dipendente. E il giudice avrebbe potuto ritenere il licenziamento ingiustificato, ma limitarsi a imporre un risarcimento all'azienda, appunto come prevede la riforma del lavoro. Ognuno per la sua strada. Invece il giudice Maurizio Marchesini ha ritenuto di dirimere la vicenda in modo diverso, ha imposto il rientro di Catalano, il dipendente, in azienda. Inoltre il gruppo dovrà pagare al suo dipendente tutti gli stipendi dal 30 luglio, giorno del licenziamento, fino alla riaccensione del computer. E dunque, eccolo qui, la legge Fornero, secondo il giudice, assomiglia al vecchio articolo 18. Una prima applicazione con distinguo sul fatto giuridico, il lavoratore è stato reintegrato. Per l'avvocato di Pietro Catalano è un caso esemplare, il giudice ha accolto l'interpretazione che ci sembrava conseguente, non si può pensare che i contratti di categoria elenchino in modo dettagliato tutti i casi in cui il licenziamento non è possibile, giusto dunque far ricadere il singolo episodio all'interno di una tipologia generale. Allora, cosa è cambiato rispetto al passato? Si chiedono su questo punto alcuni giuslavoristi. A giudicare da questa sentenza, non granché. Ci sono tantissime segnalazioni, vediamo di darne alcune. Per quel che riguarda la politica, i giornali si interrogano ovviamente sul dopo annuncio di Berlusconi. Ieri è arrivato anche in video il passo indietro. È davvero un passo indietro? Sembra proprio di sì, anche se tutti i giornali puntano sul fatto che ora un po' è guerra all'interno del centrodestra, l'assalto alle primarie, tanto che Berlusconi racconta in un retroscena di Libero, Salvatore Dama avrebbe già pensato alla persona da mettere in campo, Emma Marcegaglia, così giura Libero, ma scrive così anche Repubblica. Berlusconi, che scrive Libero, si sarebbe sfogato ieri, non ne potevo più. Ora penserò soprattutto all'università liberale, mi sento libero, non ne potevo più, le responsabilità politiche erano diventate insopportabili, e avrebbe appunto questo sogno di candidare Emma Marcegaglia, dunque altro che primarie, tanto che il giornale è un po' sibillino nel far dire a Berlusconi, nell'attribuire a Berlusconi questa frase che è il titolo di pagina 3, ora vediamo cosa combinate, come dire ai suoi. E poi il tranquilli non mi faccio da parte, tanto che qualcuno ipotizza addirittura che questa delle primarie sia un po' un qualcosa che viene fatta, ma in realtà non sarà poi così definitiva nella scelta. Come dire, un Berlusconi che certo non fa un passo indietro. Beh, certo, Marina Berlusconi, la figlia, intervistata dal Corriere della Sera da Daniele Manca, pagina 11, dice: mio padre mi ha chiamato mercoledì, l'ho sentito sereno, Come sempre quando prende decisioni di questa importanza non agisce mai d'impulso, pondera bene a fondo. Una volta che ha deciso però, ha deciso. E poi, dice Marina Berlusconi, si può stupire di questo passo solo chi per anni ha creduto alla propaganda becera sul regime, al caimano che avrebbe avvelenato i pozzi, messo a ferro e fuoco la città prima di andarsene. Peccato per loro, si sono trovati davanti a un annuncio estremamente pacato, senza spigolature polemiche, l'annuncio di chi vuole unire e non dividere, un annuncio davvero uomo al servizio dello Stato. È la figlia che parla, che poi dice: non tocchiamo il tema delle aziende, mio papà non ha fatto un passo indietro su questo, anche perché la realtà è che dalla politica non hanno mai avuto vantaggi le aziende, anzi. Insomma, Marina Berlusconi che dice le aziende danneggiate dalla politica, la pensa in modo ben diverso il quotidiano Repubblica, che va a spulciare i conti, in qualche modo è una sorta di risposta ovviamente non annunciata di Repubblica all'intervista da Marina Berlusconi. Ettore Livini a pagina 11 del quotidiano di Ezio Mauro, il titolo è questo dell'inchiesta: da 162 milioni a 3 miliardi, così è cresciuto il patrimonio delle aziende di Silvio Berlusconi dalla discesa in campo che ha portato bene. Scrive Livini, la storia si incaricherà di dire se Silvio Berlusconi è riuscito davvero a fare gli interessi degli italiani. Un fatto però è certo, i suoi se li è fatti benissimo. Nel 94, quando è sceso in campo, il Cavaliere aveva in tasca 162 milioni di euro. Oggi il suo patrimonio si è moltiplicato per 18, sfiorando quota 3 miliardi. Questo è l'inizio dell'articolo che trovate su Repubblica, pagina 11, con tutti i numeri, tutti i calcoli del patrimonio dell'ex Presidente del Consiglio. A sinistra invece c'è una nuova inchiesta, Vendola, per il quale il PM ha chiesto 20 mesi di carcere per la nomina di un primario. E lui dice: se verrò condannato, la sentenza è il 31 ottobre, quindi tra 5 giorni, se verrò condannato mi ritiro dalla politica. Mentre Fini, ieri è intervenuto da Santoro, il giornale titola Fini all'angolo, scarica tutto sulla famiglia. Beh certo, ha detto: davanti al codice penale, davanti agli italiani, non ho niente di cui rimproverarmi e niente di cui vergognarmi. Però ha scaricato effettivamente, dice, sono problemi in caso personali, o meglio familiari, i rapporti tra Elisabetta Tugliani, la moglie, il fratello di lei, vale a dire Giancarlo Tugliani, e il latitante Corallo. Insomma, tutte carte giudiziarie che tra l'altro oggi l'Espresso continua nella propria inchiesta, ne pubblica altre. Insomma, siamo quasi in conclusione, ci sono i Bossi Junior che hanno aperto, fa sapere il Fatto Quotidiano, una azienda agricola, Terra Nostra. La sede è a Brenta, nella cascina acquistata dalla madre per 450.000 euro. Il Fatto Quotidiano mette le foto di asini, zappe, questo è il titolo, asine e zappe, i Bossi si danno alla campagna, latita per ora Renzo Bossi, il trota, e vabbè c'è la battuta, ma adesso metteranno un laghetto anche nella tenuta. Comunque insomma, il Fatto Quotidiano è andato a vedere che fine abbiano fatto i figli di Umberto Bossi. Chiudo con una notizia che proviene da Milano. L'imprenditore Proto, Alessandro Proto, ieri ha lasciato e trovate la foto della sua macchina targata Svizzera, pagina 27, attaccata all'Arena di Milano, con questo biglietto: cari vigili, se volete mettetemi pure una multa, fate pure, ma non rimuovetela per cortesia, tempo un paio d'ore che finisco una riunione e la sposto, al massimo mettete una doppia multa, grazie. E ha lasciato la macchina attaccata all'arena di Milano, un qualcosa che in una zona vietatissima, è entrata anche in un cancello dove tutta la gente fa footing eccetera, e poi contattato dal Corriere dice: ma è lei? Sì, è vero, avevo una riunione urgentissima, dovevo andare da un avvocato di fronte, non trovavo parcheggio, ho lasciato questo biglietto, ho detto: se volete multate, però non rimuovetemela per carità. Vabbè, ma le hanno dato almeno la multa? Effettivamente no. Così Proto, l'auto nel parco, multatemi pure, ma devo andare a una riunione. La sfangata, manco la multa si è preso. Vabbè. Con noi c'è il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, che voglio subito salutare. Benvenuto, ben ritrovato, sottosegretario. Buongiorno. Senta, si parla molto, ci sono tanti temi ovviamente di attualità per quel che riguarda l'economia. L'ultimo, la questione della cosiddetta tassa sui ricchi, no? Questa ipotesi di mettere una tassa del 3% su chi guadagna 150.000 euro per trovare risorse per gli esodati. L'ex ministro Damiano ancora oggi sull'Unità dice: io difendo questa proposta. Lei che ne pensa di questa idea? Che il ministro Damiano difenda la proposta è naturale, perché lui ha fatto una battaglia che dura ormai da due o tre anni, sempre sullo stesso, un anno intero su questo, da quando è iniziata la riforma Fornero, insomma. Sì. Cioè, bisogna dargli atto di una costanza, di una continuità di pensiero che è veramente impressionante. E che questo è stato, come gli ascoltatori sanno, una decisione della commissione parlamentare della commissione lavoro che si occupa dell'argomento. Il rappresentante del governo in quell'occasione ha espresso la contrarietà del governo stesso. Il voto della commissione è stato unanime, salvo il voto contrario dell'onorevole Cazzola, che è uno però dei principali esperti della materia per il conto del PDL. Vedremo quello che succede in Parlamento. Credo che noi manterremo la nostra posizione contraria rispetto ad una procedura come quella prevista dal parere della Commissione Lavoro della Camera. Per Confindustria è una ipotesi. Oggi il vicepresidente Regina, intervistato da Pubblico, dice è demagogia, perché si possono recuperare solo 600 milioni di euro così, secondo le nostre stime, mentre servirebbero per l'INPS 10 miliardi per gli esodati. Lei concorda? Dunque le stime mi sembrano troppo basse, perché noi già abbiamo una tassa del 3% sui redditi superiori ai 300.000 euro e questa credo che dia un gettito di 500.000 euro, quindi dovrebbe essere un po' di più. Il problema non è questo, il problema è che noi abbiamo già una serie di 500 milioni di euro, forse 500 milioni di euro, certo. Sì. No, infatti, però sa le cifre, 500 milioni di euro già nella legge, nel decreto Salva Italia, diciamo. Sì, nel Salva Italia. Questo sarebbero ulteriori 3%. Ecco. Sì, però noi abbiamo già un contributo di solidarietà per i redditi alti e le pensioni alte, che sono pari al 5% per la parte eccedente dei 90.000 euro e del 10% per la parte eccedente di 150.000 euro. Quindi alla fine di contributi di solidarietà si può morire, in un certo senso, consentitemi la battuta. Noi pensiamo che il problema degli esodati, che è un problema drammatico e va risolto, lo possiamo risolvere con strumenti meno traumatici per quanto riguarda il prelievo fiscale. C'è sempre una proposta appunto dell'onorevole Cazzola, che è quella di costituire un fondo che viene alimentato dagli stanziamenti già realizzati per gli oltre 100.000 esodati che sono stati regolarizzati in qualche modo, e che è un fondo che attualmente dovrebbe essere intorno ai 5 miliardi. Ma alimentato come? E come si potrebbe? È stato già messo a bilancio, perché sono le decisioni già prese per risolvere. Questo fondo probabilmente si dimostra anche in qualche modo eccedente. La nostra idea quindi è di mantenere questo fondo, di alimentarlo anno per anno, per far sì di affrontare ogni anno la corte degli esodati che si trovano in quell'anno senza pensione, senza stipendio. Cioè affrontarli diciamo a scaglioni, ecco. È una soluzione che non è traumatica per il contribuente, ci consente, dà le garanzie che è giusto dare nei confronti di quei cittadini che non per colpa loro si sono trovati in una situazione paradossale, perché appunto non è pensabile che ci siano centinaia di persone che all'improvviso si trovano senza pensione, senza retribuzione, ecco, però, e senza ammortizzatori sociali. Sottosegretario, le devo chiedere anche questo: oggi spunta l'idea, il Corriere ne parla, invece di trovare risorse aumentando le accise sul tabacco, quindi arrivare fino a 80 centesimi in più sulle sigarette. C'è questo allo studio del governo? Oggi c'è il Consiglio dei Ministri, può ipotizzare che possa essere un'idea? Ma guardi, il tentativo di utilizzare queste forme un po' anomale di copertura sia sui tabacchi che sui giochi è una tentazione da parte del Parlamento. Noi saremmo in linea di principio contrario, ma per il semplice motivo che già assistiamo nel campo delle accise sui tabacchi ad una forte diminuzione del consumo di sigarette. Quest'anno noi avremo una diminuzione del 5-6%, quindi siamo entrati entrati in una fase che c'è una grande elasticità della domanda, sì, per cui basta un piccolo aumento di, tra l'altro anche in questa settimana, come sapete, le sigarette sono aumentate di altri 10 centesimi. Quindi diciamo, abbiamo già dato l'idea del governo. No, ma non ci sono possibilità, nel senso che aumentiamo specialmente di una cifra così consistente il prezzo delle sigarette, non abbiamo entrate. Abbiamo poi fenomeni molto stravaganti, perché abbiamo un aumento fortissimo del contrabbando di sigarette. Finché si tratta di contrabbando relativi alle sigarette griffate, cioè quelle che vengono consumate in Italia da parte dei grandi gruppi multinazionali, e un certo controllo è possibile, perché generalmente sono le stesse sigarette, adesso non voglio indicare il marchio delle sigarette, ma prendiamo qualsiasi tipo di sigarette che vengono prodotte per esempio nell'est europeo e poi vengono importate di contrabbando in Italia. Se sono prodotti griffati di consumo normale, è possibile un controllo stesso da parte delle multinazionali che lo producono, perché se loro vedono che alcuni stabilimenti dell'est europeo hanno un tiraggio che non è giustificato dal mercato interno, intervengono con contingentamenti. Il problema sono quelle non griffate, diciamo così. Sì, perché nell'est europeo ci sono dei prodotti nuovi che non sono di largo consumo in Italia, che vengono acquistati a circa un euro al pacchetto e poi introdotti di contrabbando in Italia e venduti a 2,50 euro. Ma è chiaro che questo potrebbe aumentare. Le devo chiedere questo, sottosegretario. Invece è arrivato un parere negativo di una commissione al Parlamento sul decreto che vuole tagliare i costi della politica. Ecco, ma cos'è? Il governo deve porre rimedio a questo? È solo un parere, è vero, però che effetto fa vedere che in Parlamento taglia? Noi però i costi sulla politica sono stati tagliati, perché i finanziamenti ai partiti c'è una nuova regolamentazione e a livello di Parlamento... Sì, ma questo decreto rischia lo stop. Sì, ma io non capisco qual è il decreto, perché il decreto non l'ultimo, sono... quello ribattezzato antifiorito o... No, ma quello è il riordino degli enti locali. Ma lì c'è tutta una discussione ancora in... Il parere della commissione è stato, insomma, non si può attaccare il federalismo così, non si può smontare l'autonomia delle regioni. Ma di quale della commissione della bicamerale, delle questioni regionali. Sì. Ma lì ci sono problemi di natura costituzionale molto molto molto cogenti, ma che stiamo affrontando a livello di commissione prima e quinta, che sta ancora esaminando il decreto. Naturalmente quella valutazione da parte della commissione bicamerale è importante, però da un punto di vista procedurale non ha grandissimi effetti sull'ulteriore decorso del provvedimento. E comunque non sono i costi della politica, lì è un riordino. Vabbè, però è quello che riguarda anche il vitalizio. Per esempio, io non ho capito una cosa: se questo vitalizio, perché adesso avete messo il vitalizio per decreto, bisogna avere almeno 10 anni da consigliere regionale, però è in vigore questa, perché è questo decreto che è in discussione. È già in vigore. Cioè, per esempio, alla regione Lombardia, che hanno passato la metà legislatura, quelli che hanno fatto una legislatura, si pensa sempre a Nicole Minetti, lo prendono sto benedetto vitalizio? No, perché nell'attuale disposizione del decreto deve essere già erogato, cioè vengono fatte salve quelle posizioni in cui già hanno per cash l'importo del vitalizio. Quindi non lo prendono. Cioè per il momento no, con il decreto, poi naturalmente il Parlamento. Poi se il decreto salta. No, lì c'è un problema che forse con quella norma va un po' meglio costruita, perché è un po' tagliata con l'accetta, ma vedremo che dirà il Parlamento. L'ultima cosa, sottosegretario, è possibile ancora pensare che l'IVA non aumenti a luglio, cioè scongiurare l'aumento di 1% dell'IVA? Ma guardi, noi stiamo lavorando in Parlamento per modificare anche quella norma, vediamo un po' come... Io dico che insomma da qui al 1 luglio 2013 insomma c'è tempo per operare. C'è una volontà abbastanza diffusa di evitare l'aumento dell'IVA, perché noi il ragionamento è: un conto è aumentare l'IVA se l'aumento dell'IVA ha come corrispettivo una riduzione dell'IRPEF, sì, che è una manovra virtuosa. Un conto invece è aumentare seccamente l'IVA, che ha invece un effetto perverso sull'economia. Però mesi fa doveva essere l'aumento del 2%, poi però la spending review ci avevate detto che serviva a scongiurarlo, quindi adesso questo 1% dobbiamo vedere come una mezza fregatura o come una mezza cosa buona? Ma tenete conto che l'IVA già doveva aumentare dall'ottobre di quest'anno e grazie alla Spending Review non abbiamo aumentato. Appunto, però si era detto la Spending Review servirà anche forse a scongiurarla nel luglio del 2013. C'è stato work in progress, cioè mano a mano abbiamo evitato che gli aumenti scattassero con la Spending Review. Siccome da qui al primo luglio mancano ancora 9 mesi più o meno, attraverso un approfondimento della Spending Review, valutando con maggiore esattezza quello che sarà l'importo della lotta all'evasione, insomma, se avremo risorse, nel frattempo stiamo vedendo già in Parlamento quella più che un aumento deciso, tanto perché è una sorta di clausola di salvaguardia, sì, come è stato fino adesso. Cioè, tutto nasce con la manovra Tremonti, l'ultima manovra Tremonti, con una clausola di salvaguardia che fortunatamente nel corso di questi anni siamo riusciti a evitare che scattasse. Quindi se ci siamo riusciti fino adesso, perché dobbiamo ipotizzare che non ci riusciamo da qui al 2013? Stiamo a vedere, se ci sono le risorse, intanto se si trovano, è chiaro, si può ancora, c'è ancora tempo, più di 9 mesi per scoprire. Ma credo 9 che già mesi, anche dalla discussione sulla legge di stabilità, questa clausola di salvaguardia, che rimane clausola di salvaguardia, credo che in qualche modo verrà modificata, almeno avendo la percezione di quello che è stato il dibattito fino adesso svolto in commissione. Allora, intanto staremo a vedere e intanto la ringrazio, buona giornata al sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo per essere stato con noi, grazie. Allora, vogliamo parlare di questa vicenda che la prossima settimana sbarcherà in Parlamento sotto forma di una proposta di legge. Il tema è molto sentito in Italia, in alcune regioni è molto sentito, è ancora più sentito forse, vale a dire il tema dell'abusivismo edilizio. Oggi il Corriere titola così: case abusive in campagna, l'ex ministro da condonare. L'ex ministro è il senatore Francesco Nitto Palma, che è ex ministro alla giustizia, che saluto, buongiorno e benvenuto senatore. Buongiorno, ci sente? Sì, la sento molto bene. Eccoci buongiorno. Qua. Buongiorno. Allora, la sua è una proposta di legge che è già calendarizzata per settimana prossima in Parlamento e che vuole riaprire i termini del condono edilizio del 2003 per la Regione Campania. Io l'ho capita così, senatore. Ci fu allora la legge sul condono, che valeva ovviamente per tutta Italia. La Regione Campania però fece una legge che vietò l'apertura di questo condono edilizio. Questa legge è stata poi bocciata dalla Corte Costituzionale e allora lei dice bisogna riaprire per la Regione Campania quei termini del condono che sono valsi per tutta Italia. In pratica è questo il senso della sua proposta di legge? Senz'altro sì. Quel condono non trovò applicazione in Campania, come lei ricordava, in ragione di 2 leggi regionali dopo dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, quindi in Campania non si applicò quello che venne applicato sull'intero territorio nazionale. E quindi bisogna intervenire. C'è una questione, come dire, di parità di trattamento dei cittadini italiani, però vorrei essere chiaro, perché ho letto anch'io l'articolo sul Corriere della Sera, non si tratta di un condono generalizzato, non si tratta di un condono esteso all'intero territorio nazionale, si tratta di dare la possibilità ai campani di condonare quello che potevano condonare nel 2003 e nient'altro che quello. E gli fu impedito. Mi lasci salutare il direttore del Mattino, Virman Cusenza. Direttore, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. C'è il senatore Nitto Palma, che è l'autore di questa proposta di legge. Dice, in pratica si chiede il senatore perché se fu fatta questa possibilità di condono per tutta Italia, alla Regione Campania invece fu impedito questo condono con una legge regionale poi bocciata dalla Corte Costituzionale, adesso per una questione di non discriminazione bisognerebbe riaprire questi termini. Direttore, elemento molto spinoso quando si parla di abusivismo e soprattutto in Campania, è un argomento rischioso, diciamo, anche quello in cui si è gettato il senatore Nitto Palma, secondo lei? Sicuramente sì, nel senso che è chiaramente un argomento incandescente all'insegna dell'emergenza. È proprio di pochi giorni fa un episodio di cronaca piuttosto preoccupante a Ischia, dove praticamente nel momento di eseguire appunto una demolizione

e inviterei il sindaco di Firenze a, nelle sue camminate per le primarie, che fa anche qui in campagna, a frequentare meno banchieri e, come dire, a verificare dal vivo qual è la realtà di questo problema sociale qui in Campania, che per molte case, il direttore Cosenza lo sa benissimo, rappresenta un problema di necessità. Nessuno vuole aiutare gli speculatori, nessuno vuole mantenere in vita i mostri ambientali. Cioè il condono per molti è una necessità? No. Beh, per alcuni casi, ha detto, per alcuni è una questione di necessità. Mi scusi, il problema che pongo io è diverso. Voglio semplicemente riaprire i termini di quel condono per condonare quello che si poteva condonare. Aggiungo che noi emenderemo questo disegno di legge prevedendo l'utilizzo delle risorse finanziarie che derivano da questa riapertura dei termini per consentire gli abbattimenti delle case abusive che non rientrano nel condono del 2003 e prevederemo una legislazione di maggiore rigore sotto il profilo della vigilanza, perché qui non si vuole neanche affrontare un altro problema, e cioè che queste 175.000 case abusive sono state costruite nel più assoluto silenzio da parte delle istituzioni. Ma questo è chiaro. Con noi c'è il direttore del Mattino, da cui voglio tornare, Virban Cusenza. Direttore, dice questa questione di, a volte sono state costruite queste cose, è vero, nel silenzio delle istituzioni, e poi a volte ricorre questa frase, spesso o in alcuni casi sono questioni di necessità perché non c'è la casa. Ma tu Sì, diciamo, su questo allora posso essere d'accordo per una percentuale assai bassa e modesta di casi, ce ne sono purtroppo di altri molto più significativi. Cito sempre Ischia perché forse voi giustamente non conoscete bene il problema, ma è davvero insomma di dimensioni no, come no, ci sono dei politici enormi. Addirittura che hanno fatto c'è un partito, se non sbaglio, no? che si basa sul diritto all'abusivismo edilizio come necessità. Esattamente, per cui io vi dico questo, a Ischia, dove si parla appunto di povera gente senza casa eccetera, in realtà stiamo parlando di da abbattere per quanto riguarda la madre di un imprenditore e di un assessore comunale, e per esempio un altro caso di una famiglia proprietaria di un complesso turistico addirittura a Forio di Ischia, che dovrebbe essere demolito, quindi insomma, non mi pare che siano esattamente dei morti di fame. Per cui è chiaro che purtroppo è un fenomeno che abbraccia come dire, le propaggini più lontane, diciamo, anche a livello sociale, per cui diciamo, non parlerei di fenomeno come dire, che, di cui possono beneficiare in particolare i poveri o indigenti. Però detto questo, io vedo un problema anche di grandi dimensioni, cioè evitare la demagogia oppure semplicemente il consenso elettorale, di cui giustamente anche legittimamente, voglio dire, un partito può andare a caccia nell'imminenza delle elezioni, però risolvere, ripeto, il problema. Allora, il problema però è veramente complicato, perché se da una parte si può parlare di discriminazione per i cittadini della Campania che sono stati esclusi dal condono del 2003, però poi dobbiamo andare a vedere quali casi di demolizione ci sono all'interno di questi diciamo, presunti da beneficiare, perché se per esempio io non ho avuto il condono del 2003 e però ho commesso un abuso di grandi dimensioni, una palazzina e compagnia bella, è diverso da chi per esempio ha costruito semplicemente, non so, il bagno specialmente più grande. Ecco, allora, cioè il rischio è che rientrino un po' tutti, che è un po' il rischio, certo, il rischio, certo. Senatore Nito Palma, su questo effettivamente scrive sempre il Corriere che 2000 furono le persone che chiesero il condono nel 2003, quello che poi non è stato possibile fare in campagna. Come si fa a riconoscere che i termini vengano riaperti per questi qui e invece il rischio da evitare è che rientrino tutti, no? Tutti si aprono i termini e tutti avanti cercano di far condonare la qualunque. Allora guardi, alcune cose. La prima, quando in Campania si costruivano queste case abusive, la Campania era governata dal centro-sinistra, quindi se vi è stata inerzia dal punto di vista istituzionale ha una sua riferibilità politica molto chiara. Sono d'accordo con il direttore Cusenza, nel senso che all'interno di questo fenomeno dell'abusivismo vi è molto speculativo e parte di necessità. La cosa che a noi interessa è evidentemente la seconda e non la necessità. E non la prima. Quanto poi all'applicazione del condono, i requisiti sono stabiliti nella legge sul condono del 2003, se verranno comprovati quei requisiti si potrà accedere al condono, in caso contrario non si accede al condono. Però senatore, mi scusi, cos'è? A noi interessa la questione di necessità, cioè è un paese un po' bizzarro nel quale si può definire necessità quello che è un reato. Lei è stato anche ministro della giustizia, non quindi c'è dubbio, è un tema, cioè, non c'è dubbio. Come si fa a definire di necessità una cosa che di per sé è reato? Se prima del 2003 è stata costruita una casetta abusiva da gente che non sapeva dove andare ad abitare, e questa casa permane in vita, non c'è nessun intento speculativo, se rientra nel condono del 2003 io trovo che sia giusto condonarla. Però era un reato nel momento in cui è stata costruita. Ma era un reato, ma il condono sana esattamente questo, così come l'ha sanato sull'intero territorio nazionale. Mi permetto di dire che nel recente provvedimento sul terremoto dell'Emilia Romagna, all'articolo 6 di quel provvedimento è stato previsto una nuova forma di condono, consentendosi la ricostruzione di manufatti interamente abusivi a condizione che per tali manufatti non fosse già stato emesso l'ordine di demolizione. Vede che torniamo alla prima mia domanda che le ho fatto, che paese è quello in cui si parla di condoni e si va da un condono all'altro? Io non so darle una risposta, io l'unica cosa che riesco a dire è questa: quel condono del 2003 non è stato applicato in Campania, ritengo giusto che venga applicato in Campania quel condono, con i limiti di quel condono e con riferimento alle case a cui faceva riferimento quel condono. Non dico nient'altro che questo, no, certo, tutto il resto è un enorme problema su cui forse, come dice il direttore Cusenza, la politica dovrebbe interrogarsi e dovrebbe riflettere. Su questo abbiamo 30 secondi. Direttore Cusenza, il ministro Clini, anche se Nito Palma ha detto smentisce categoricamente di averci parlato, ha detto non passerà mai una cosa del genere. Passerà questo, settimana prossima vedremo in Parlamento, si annuncia un aspro dibattito. Allora, ma a mio giudizio non passerà, diciamo, per la semplice ragione che il clima non mi sembra favorevole, aggiungo io anche per fortuna a questo tipo di blitz, perché mi pare che un ragionamento del genere, che è anche fondato rispetto a alcune esigenze che ci sono, non può avvenire in questo modo, nel senso che a mio giudizio andavano fatte e andrebbero fatte una serie di deroghe alla proposta che ha fatto il PDL, perché così com'è si rischia di legittimare appunto l'abuso e di dare un messaggio sbagliato completamente ai cittadini, i quali oggi si trovano in presenza di una legge che appunto va a legittimare l'abuso e di nessun deterrente vero, sì, serio nei confronti di chi invece commette reato. Certo. Comunque staremo a vedere settimana prossima il dibattito. Io vi ringrazio, senatore Francesco Nitto Palma del Popolo della Libertà e Virman Cusenza, direttore del Mattino. Che dire, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione e l'Alpino, Peter Vescapè in regia. Ci ritroviamo lunedì alle 6.30. Seguiteci su Twitter, Alino Milan, sono io, 24 Mattino la trasmissione, e carta e penna pronti, arriva il numero della nostra segreteria telefonica. Lunedì. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.